Allora, questa charla è frutto di un inganno. Abbiamo detto che partiva alle 7, ma soltanto per avervi alcuni di voi qui per le 8 pronti. E come spesso accade nel tango, in realtà questo inganno poi crea mistero, crea scoperta, e dalla scoperta magari poi spuntano fuori cose molto interessanti, magari qualcuno ha sconosciuto. L'inganno in realtà è anche un pochettino quel leitmotiv che unisce me e Victor. Ci incontrammo tempo fa in una milonga e si spacciò per un cantante, per un milonghero, poi scoprì la realtà. È molto di più, è molto di più di un cantante, molto di più di un milonghero, è un cultore del tango, un depositario, uno di quelli che si portano giorno dopo giorno il tango sulle spalle, e grazie a loro poi si scoprono cose interessanti che magari nessun libro racconta, nessuna chiacchiera in milonga racconta. E dobbiamo per forza invitare qui questi viejos, antiguos, milongheros e farceli raccontare dalla loro viva voce. Poi Victor lo facciamo parlare per un'ora, no? Per questo che sto parlando un po' io, facciamo parlare per un'ora per non stancarlo, no? Perché poi più tardi durante la serata canterà per noi alcuni tangos e vi assicuro sarà imperdibile. Grazie Victor, grazie a tutti quelli presenti, grazie a chi ci sta ascoltando da casa sulle frequenze di Radio Exalge, quindi grazie Exalge per ospitare il tango e per renderlo reale ogni martedì. Vorrei un forte applauso per il nostro ospite di stasera, Victor Hugo Del Grande, signores. Grazie. Buonasera, iniziamo. Se non mi date il via non parto. No, volevo fare una cosa molto semplice. In realtà quello che pensavo di fare è tipo raccontarvi, farvi vedere le cose. Però sono aperto anche a fare una chiacchierata, se vi stufa vedere cose storiche, così, se vi stufa, parliamo di tango e finisce lì là, eh? No, storia mica tanto. Cioè alla fine mi trovo a fare io il tanghero della situazione, essendo che c'è gente... Che c'è? Che c'è gente veramente preparata, ci sono... Tangheri veri, quelli che studiano, ci sono storici. A me mi è toccato proprio di fare testimone di certe cose per avere un'infarinatura così. Allora, parto con un piccolo video, guardatelo perché sono i sottotitoli in italiano, e dopo inizio a raccontarvi una cosa, che quando è morto mio papà, nel 2011, sono andato là, no, prima ero andato, vabbè, quando lui è morto è rimasto in casa una collezione che aveva di dischi, di CD e un sacco di riviste di tango. Mio fratello dice, ma portateli via, no? Che... E ho scoperto che, purtroppo gli stavo raccontando a loro, mi si è bruciato un hard disk con una quantità di materiale, avevo conferenze di ore e ore e ore, mi è rimasto solo un pezzettino. Però una volta, guardando le riviste di mio papà, ho capito che le fotografie che c'erano lì dentro raccontavano da sole molto di più di quello che io riuscivo a spiegare con le parole. Perciò ho scaricato un po' di foto di quelle che aveva mio padre per fare un riassunto più o meno velocemente di quello che è successo in Argentina dalla fine dell'Ottocento. Sì? Guardate questo piccolo riassunto che non... può essere introduttivo, vediamo. C'è il flaco d'animo. Mia mamma cantava tanto. Come si apprendeva a bailar? Mirando. Non había profesores. En ese tiempo no había profesores. Y bailábamos en la esquina, en la casa de uno de nosotros, entre muchachos. Y yo bailo ahora igual que bailaba cuando tenía 13 años, prácticamente. Y de ahí para acá, seguí bailando lo mismo, sin profesores, haciendo lo que yo siento, que es lo importante, ¿no es cierto? el silencio. O la música del dinero y del mercado, que borró nuestra música durante muchos años. Pero ellos, estos milongueros, que hoy vemos todavía en nuestras milongas, permanecieron. Militantes y resistentes. Ejerciendo el tango a pesar de los ritmos impuestos desde afuera. Nos respetábamos mucho en la pista. O sea, no nos chocábamos. Porque, por suerte, nosotros aprendimos a bailar todo entre muchachos. Y lo primero que nos enseñaban era a no chocar y a cuidar siempre a su pareja. Aunque improvisábamos los pasos, igual, siempre se mira hacia adelante, en una posición natural, como si uno va caminando. Códigos de funcionamiento y nuestra manera de bailar al piso de forma estrictamente musical son sin duda un legado de ellos, de estos milongueros. Yo soy un apasionado del tango con mucho sentimiento. Yo no puedo bailar un tango si no tiene sentimiento. Sentimiento para mí significa cuando yo bailo un tango, aquellos que me están mirando porque de casualidad miran la pista se dan cuenta de que yo en ese tango pongo toda mi vida. No sé bailar si no pongo mi vida. La enseñanza no debería tomar como referente al tango de la vida real. ¿No es más importante transmitir una manera de sentir antes que los despliegues coreográficos y las fantasías acrobáticas? Porque hay dos cosas que no podés transmitir vos o enseñar, que es la sutileza e improvisar. A un alumno no le podés decir improvisar. No, eso sale de uno, nace de uno. Igual que tener la delicadeza, tener una mujer en el abrazo, tratar de tratarla con suavidad. Para nosotros eso es el tango. El tango es lo malito que hay. Entra por el oído. Va a tu corazón y ahí a tus piernas. Dos irreductibles, dos cosas que no se deben negociar, el abrazo y la musicalidad. Felizmente, son muchos los jóvenes bailarines que piensan en y a los que piensen diferente, el tango los espera. Abbiamo già una domanda fantastica. Mi muovo io perché aspettiamo che si muova il maestrissimo. Facciamo le 21. Ti passo il microfono così ci sentono anche da casa. Sull'ultimo maestro intervistato che non conosco, conoscevo quello prima, Flaco Dani, che non c'è più, ha parlato di musicalità, ma cosa si intende per musicalità? Anche l'interpretazione letterale del pezzo, abbiamo sentito Verde Mar, io ho sentito un maestro una volta che ha visto un'esibizione e ha detto sono stati bravi, però il testo parla di una donna che è morta, dell'amata, e fare un voleo su un pezzo così non ci sta molto. Quindi la musicalità è anche la un'interpretazione letterale di quello che ascoltiamo? Arrivo subito col microfono, maestro, celerissimo, a passo di tango, olle. No, mi metti in imbarazzo perché io dico quello che penso e siccome no, quello che io penso serve a me fondamentalmente, non faccio testo. Ognuno fa quello che vuole, però musicalità. Io ho sentito che fanno, domani io faccio uno stage di musicalità. Ho sentito che gente che viene con uno spartito, che insegna la figura musicale, ma la gente mica va a fare un corso di solfeggio. Musicalità. Io penso, rispondo a questo, poi mi butto a fare questo, se no non ce la caviamo, perché è profonda la cosa. Io penso, dopo aver passato dittature, malarie varie in Argentina, dopo aver cercato di studiare il canto, il teatro, tanti anni, sono arrivato, per quello che parlo per me, per quello che fa il resto, che è il 99%, a me non me ne frega niente. Vedo cosa succede con il tango ed è molto triste per me quello che succede oggi con il tango, perché è un evento prettamente commerciale e banale. Sono riusciti a banalizzare uno degli strumenti più profondi culturalmente che ha prodotto Latino America, che è il tango. Perciò la musicalità per me è dare gli strumenti alla persona che vuole ballare per poter essere se stesso e poter ballare il tango. Perché la cosa importante è poter utilizzare questo strumento qua. Il tango non è un ballo, ragazzi. Adesso vedrete che sono 150 anni di eventi e di cose. Non è un ballo il tango. Hanno raccontato che è un ballo, ci fanno i soldi sopra, ci fanno i campionati sopra, ti vendono i vestiti, ti danno lezioni private, ma il tango nostro è un'altra storia. Il tango è uno strumento potentissimo perché la gente che riesce a percepirlo e riesce a utilizzarlo possa mettere in moto la parte più genuina di noi stessi, che è la parte interiore. Tutti ballano per l'esterno, no? Ganci, volè, calci, cazzate. Perché un altro ti guarda e ti dice wow, wow. Ma il tango in realtà vive dentro un abbraccio, vive dentro, non è fuori. Ed è uno strumento perché tu esprima te stesso, ti emozioni e possa essere te stesso. Ecco perché nel 55 ci hanno pensato bene gli americani a bombardare casa di governo e a farci un culo così e a proibire il tango per 25 anni. Perché questo è liberatorio, ti rendi conto? Se ognuna delle persone sta sentendo e ragionando e pensando e comunicando, per loro è molto pericoloso. Per me questa è la musicalità. Qualcosa che ti permetta di essere te stesso mentre balli un tango. Il resto è business per me. Possono dire, pensare quello che vogliono, non me ne frega un cazzo, veramente. Allora, posso partire? Partiamo? Ti ho risposto in qualche modo? È il mio modo, poi ognuno può pensare veramente liberamente quello che vuole. Allora, quando dicevo, mi sono accorto che le fotografie che aveva mio padre raccontavano molto meglio quello che era successo di quello che io cercavo di spiegare parlando. Mi fai parlare un'ora e io non so se canto. No? Allora, guardate. Iniziamo con questo. Si vede con la luce, Marchino? Adesso dimmi se conviene a spegnere qualcosa. Ok. Dimmi tu, perché è meglio? Ok. Che dice qua? Farò veloce. Los gauchos. Tutto inizia a fine 800, quando anche la gente della campagna argentina, che non c'era lavoro all'interno, in l'hacienda, emigravano verso la città, tutto quello che fanno adesso lo stesso, no? E questi andavano alla periferia di Buenos Aires, però questa fotografia che cosa racconta? Intanto dove vivevano e intanto come vestivano a fine 800, guarda, osservate lì. Il facon, che è il coltello, il gaucho usava il facon per tutto, per tagliare la carne, per litigare, sopravvivere, per tutto. No? E il poncho, usavano il poncho. La polagna, la bota. Questo era il fine 800. Altri argentini di fine 800, dopo il lavoro si riunivano a mangiare, guarda qua, guardate la fotografia. Tipo che fa il mate e l'altro che taglia la carne e questo sta suonando, lo vedete? Los Lecherito. Oh. Nel tango ci sono stati parecchi ballerini d'inizio secolo che erano, portavano il latte alla gente. Guardate la pettinatura della ragazza qua, il rodete, non si usa più da... Y esto es el, la boina. ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama? Vasco. ¿Cómo se llama? Pati. ¿Eh? Boina. 1880, guarda che roba. Tutto questo era custodito nei libri, nelle riviste di mio padre, che guardando, dico ragazzi, c'è la storia del tango qua dentro. Famiglia dell'Arrabale è la periferia di Buenos Aires. Poverissimi, non c'era niente. Guarda la tipa dove lavava i vestiti, il pozzo dell'acqua e il tipo che gli dà il mate al ragazzino. Vedete? Succede che poi iniziano ad arrivare i primi immigranti europei da noi. E la differenza della vestimenta è pazzesca, no? Guardate. Guardate come è vestito questo signore qua. Cappelli, già un'altra storia, no? Rispetto al gaucho. E questo è un conventicolo in Buenos Aires. Io guardando queste foto ho capito perché tanti fotografi sono famosi, perché realmente la fotografia racconta, entra visivamente, è potentissima. A me questa fotografia racconta il seguente, racconta che in una mattina, in un conventicolo, è pieno di donne con i bambini, tipo sta vendendo frutta lì. Non ci sono gli uomini perché lavorano, vedete la vita del conventicolo? Sono tutte le donne con i figli. Adesso vi chiedo un'impressione su questa foto qua. Cos'è secondo voi? Questo è mio nonno, immigrato nell'inizio del secolo. Viveva in un conventicolo, il bambino mio papà. E mio padre è nato, mi vengono i brividi, mio padre è nato in un conventicolo. E me l'ha raccontato quando era anziano, perché evidentemente si vergognava delle sue origini. Però, come vedete, la mia famiglia è italiana, io sono profondamente italiano e profondamente tanghero, volente o nolente. Questo è un conventicolo del 54, si chiamava il Rosario, questo è mio nonno. Mio nonno faceva teatro in strada, in Molise, era militante di sinistra, Marcio è scappato, una storia pazzesca, ha avuto una soffiata che lo venivano a prendere i fascisti nella notte per farlo fuori e lui un paio d'ore è andato da mia nonna, dai familiari, ha fatto quattro pacchi così e sono scappati, no? E penso che si siano imbarcati a Genova, una storia pazzesca. E io sono venuto qua nel 91 e mi ricevo una telefonata in centro a Milano ed era uno zio mio lontano che viveva a Milano, non so che cacchio mi ha avvertito, viveva a 50 metri da casa mia, Corso Genova. Quando viene a casa mia si emoziona talmente tanto, mi abbraccia, mi bacia, perché lui vedeva, no? E mi dice, mi ricordo la notte dove tuo nonno ha salutato tutti e è scappato. Che storie, perciò era tutto vero. Dai, andiamo avanti. Conventicolo, devi. Conosco già parte della storia familiare di Victor e la trovo ogni volta sempre più emozionante. Mi hai fatto pensare una cosa, maestro. Ci sono varie storie sul tango, come è nato il tango, perché il tango da che è nato è riuscito sempre a dire qualche cosa, a trovare un posto nella società, e oggi è una società che non è più solo argentina ma è globale, no? E quella che più mi ha affascinato, se volete, è quella di è sempre stato capace a parlare alle persone in cerca di un'identità, in un certo senso. E nel tuo racconto familiare io vedo tanto di questo, vedo gente che magari è scappata dai propri paesi per mille e più motivi, e in un paese lontano, conoscendo gente distante, diversa, eccetera, sono riuscita a creare un nuovo senso di identità, di orgoglio personale, poi nazionale, e in questo momento veramente forse il motivo per cui il tango parla a tante persone diverse è perché siamo un po' tutte comunemente in cerca di un'identità. Può essere, sì, sì. Come vedi, non ho detto che non sono così intelligente io. Allora, il conventicio, andiamo avanti. Che questa fotografia mi colpisce molto. Che cosa vi dice questo? Patti, che... ma basta guardarlo, no? Cosa ti suggerisci, intendo? Perché parla la foto. Sì. A me cosa mi fa ricordare? La generazione di mia madre, che sempre i fratelli più grandi dovevano curare i bambini piccoli. Doveva far da madre. Guarda questa qua, no? Questi sono l'ultravolta, mira Marco. Sono i ragazzi poveri che... Luci da scarpe, come si chiama? Luci da scarpe, no? E la cosa che mi chiama l'attenzione di questa foto sono due. Una sono questi ragazzini che sono evidentemente stanno un pochino meglio economicamente, però guardate come li osservano, perché questi fanno casino, non sono... E loro lì, vestiti un pochino meglio, li osservano un po' sconvolti. La seconda cosa che mi chiama molto l'attenzione è questo bambino qua, che è vecchio, ragazzi. Un bambino che avrà 10 anni, che deve riuscire a lavorare, e guardate l'espressione che ha. Lo vedete? Questa è l'Argentina dell'inizio del Novecento. Questo è un italiano che vende il caldarrosta in la bocca. Sicuramente genovese, pieno di italiani, siamo tutti italiani là. Questo è un ciabattino che sta lavorando, sicuramente italiano, con la famiglia, non con Benticcio. La cosa che mi chiama l'attenzione è la bambina piccola, perché quando ci sono queste famiglie umili e poveri, hanno dei vestiti scarsi, si mettono una roba sopra l'altra per fare un po' di caldo, no? Tutti gli stracci che trovano. E la bambina, guardate com'è imbottita di cose sotto il vestitino, sotto vestiti poveri. Così è iniziato tutto. Barrio de Boedo, barrio de Tangueros, de Caro soprattutto. La Boca è stata fatta dai genovesi, i zenensi. Infatti, i tifosi del Boca sono i zenensi, no? I genovesi. Solo che hanno cercato di riprodurre un po' la Liguria con la latta e il legno, non c'era una mazza, però dipingevano tutto, no? Qualcuno è stato a Buenos Aires nella Boca? Este è un canicita della Boca, un bambino nella Boca che vende giornali piccoli. Quasi tutti i bambini della generazione di mio padre lavoravano da piccolo, infatti. Da piccoli lavoravano tutti, dovevano fare qualcosa per contribuire. El Arrabal de Buenos Aires, guardate la, come si chiama? La illuminazione a LED. Tipo che carica la cosa con l'olio, e questa è l'illuminazione della strada. Il Puerto del Rosario, il Puerto del Rosario è stato il granero del mondo, lo chiamavano, il granaio del mondo, perché nella Seconda Guerra Mondiale il Puerto del Rosario e Buenos Aires esportavano grano a tutta l'Europa. Rosario lo dicevano il granaio del mondo, e questo era il porto 4. I primi tram a trazione a sangue, guarda. Li avete mai visti questi? Tirati dai cavalli. Così, e non c'era l'elettricità ancora dappertutto. Il mercato, penso, dell'Abasto, sarà del centro di Buenos Aires. Guardate il poliziotto, è vestito all'europea, il mercato. Qua bazzicava Gardel da bambino. Ok, iniziamo un pochino con un'altra cosa. Cos'è questo? Sentite, le registrazioni sono antichissime. L'organito ha avuto una funzione fondamentale nella diffusione del tango, perché giravano questi tipi nei quartieri suonando queste cose, no? E usciva la gente, i bambini ballavano. E l'organito ha una funzione pazzesca nella diffusione popolare del tango all'inizio del Novecento. E questa era una registrazione dell'epoca. Uff. Qua si sarebbe da parlare. El Pibe Ernesto Ernesto Ponzio. Penso che 1887, se non mi ricordo, ma non importa, ha scritto Don Juan, il tango Don Juan. Questo è un personaggio famoso proprio perché è storico, perché ha scritto il tango Don Juan. Vediamo. Questo tipo è famoso perché il Pibe Ernesto suonava il violino, un ragazzino rimasto orfano, però nessuno sa che questo era un delinquente pesante. Io sono del Rosario e lui, c'è un aneddoto, mio fratello mi ha fatto vedere girando perché si ricorda tutto, la casa dove è successo. Il Pibe Ernesto era in Rosario e c'era uno che organizzava sabato, c'era il gioco giocavano alla stava, giocavano alla stavas. La stava è l'osso del ginocchio della mucca, che è un po' quadrato, e lo usavano tipo dadi, così giocavano. E il tipo del locale lo aveva caricato, non so, con un buco con un po' di piombo, cadeva sempre lo stesso, capito? Cadeva sempre dalla stessa parte la stava. E il Pibe Ernesto l'aveva visto. E andava armato, era, no? Però nessuno ne parla, perché il Pibe Ernesto forma parte della storia del tango. E gli dice: guarda che ho capito com'è la storia qua, andiamo 50-50. E l'altro dice: non ci penso nemmeno. Il Pibe Ernesto tira fuori una rivoltella e figa. Tutto vero, tutta storia. C'è una foto qua che è allucinante. E fa così per spararli, solo che tipo si fa scudo tra un altro e il Pibe Ernesto ammazza un altro. Lo ammazza e scappa, poi non so dove va al sur, non so dove cacchio va, lo beccano e lo mettono in carcere in Rosario. Penso si è fatto 6 anni, non lo so. E nel carcere di Calle Ceballos, che è dietro casa mia, c'è ancora. Come? L'ha inventata lui, ho capito. Il Pibe Ernesto. Il tango Don Juan è un pilastro, guardate. Allora, e questo è lui, questo è il tango Don Juan, e questa foto spettacolare che Pugliese, che lo va a trovare in carcere, in Calle Ceballos, dietro casa mia, quando lui era in galera, guardate. Si vede questa foto? E l'altro nome è il Sessidiaco Ortino, non mi ricordo chi cacchio, no, è troppo, troppo vecchio per essere Ortino, non mi ricordo chi è, ma questo è Ponzio e questo è Pugliese, che lo andava a trovare. Io sono cresciuto giocando lì, capito? Perciò volenti o nolenti, anche se mi facesse schifo il tanco, è inesorabile. Come fai? Eh? Mi stai offrendo da bere? E questo era il Pio Ernesto. C'è stato un altro alla fine dell'Ottocento, guardate questo tipo qua. Questo era Rosendo Mendizábal. Non riesco a pregare, a beccare questa cosa. Rosendo Mendizábal era uno di classe media, porca miseria. Perché non va? Arriva. Ok. Ahí está. Era un pianista. Suonare il pianoforte nell'Ottocento doveva essere una famiglia classe media. Chi cacchio aveva un pianoforte in casa? Allora lui suonava nello Spiricundine, suonava nelle case di, come si dice, dove ci sono le donne, case di? Nessuno. Non fate quelli che... Quella roba lì. E si vede che c'era un frequentatore, un tipo d'Entre Rio, d'Entre Riano. E lui gli dedica, bien, papà, bien, ponemela acá, vení, que, ponemela acá que no... Ahí está, gracias. ¿Qué stavo dicendo? Gli dedica un tango che poi diventa famoso nella storia del tango a un frequentatore che evidentemente pagava bene e che ama il tango. Il tango l'entrerriano. Sentite la registrazione? Tutto questo è fine 800, tra un po' capirete perché vi sto portando pian pianino, prenderà senso. Andiamo avanti, è l'entrerriano, mirà. E qua è un salone del lustravuoto, del luci da scarpe, i ragazzini lavoravano. La cosa che mi affascina da questa foto è la faccia da questo tipo che sembra un calabrese, guardate sta roba, impressionante, eh? E tutti i figli qua che si fanno pulire le scarpe dei ragazzini, no? Ok, andiamo avanti. Questa è la prima imprenta, la prima impressora di spartiti di tango del secolo, ragazzi, il Novecento. Iniziavano a venire fuori i grammofoni in Buenos Aires e qua iniziano i balli per strada, guardate questa cosa qua. E i balli per strada iniziavano a suonare la banda, tipo la banda di Casarile, la banda di Marcignano, passava, suonando tanghi, e la gente iniziava a ballare per strada, guardate. Chiedo scusa. Per strada. Questo iniziava, questo accadeva a inizio del Novecento. Questa è la tienda Gatti Chavez, Gat and Chavez. Qualcuno sa cos'era la tienda Gat and Chavez? No? Come se fosse tipo la Rinascente, non c'entra niente, però era un magazzino così enorme che c'era all'inizio del secolo in Buenos Aires. Perché è importante? Questo è Montmartre, in Paris. Perché in Paris, a Parigi, c'era questo signore qua, già da un paio d'anni, con questa signora qua, con la Flora Rodriguez. Questo è Alfredo Gobbi, padre. Erano a Parigi e sono stati i primi a incidere tanghi e cose, 902, 3, erano già lì, no? E il Gat and Chavez, che vedete qua? Cos'è questo? Questa è la chi... Dov'è Marco? Marco, vieni qua. Questa è la chitarra di Bigiondo. Questa è la chitarra di Ángel Bigiondo. E quando en el museo de la Casa de Gardel, cuando l'ho vista, mi sono paralizzato, dico, cazzo, con questo strumento il tipo ha scritto le prime, capito? Ha scritto il cioclo con questa chitarra, cioè ti... La viola, la chitarra de coso, de Bigiondo. Y Gaten Chávez lo contrata e lo manda a Parigi a incidere con questi qua, con i Gobbi, no? Guardate qua. Questi video sono Ángel nostri. Bigiondo nacque il 16 febbraio 1861 a Buenos Aires, città in cui morì il 14 ottobre 1919. I motivi e le circostanze che contribuirono alla nascita del tango argentino furono molteplici. Bigiondo ricoprì un ruolo chiave e determinante al punto di essere chiamato il padre del tango. Il suo lavoro fu fondamentale per trasformare los tanguillo spagnoli e los habaneras di fine secolo in autentici suoni del Rio de la Plata. Mentre si dedicava con passione al grande amore per la musica e la scrittura, fece mille mestieri per procurarsi da vivere. Fu tipografo, pagliaccio da circo e il pajador, l'uomo orchestra. Cantava e suonava la chitarra, mentre un supporto attaccato al collo gli permetteva di suonare anche l'armonica. Nei primi anni del Novecento andò a Parigi, ingaggiato dal grande magazzino argentino Gaten Chávez, per registrare brani di tango argentino. Al viaggio nella capitale francese si unirono Alfredo Eusebio Gobbi e sua moglie Flora Rodriguez, genitori del poi geniale violinista e direttore d'orchestra Alfredo Gobbi, che nacque in Francia proprio durante quella tournée. Per l'incisione di questi dischi... Educational. Victor Hugo del Grande, signores. Forte l'applauso, per favore. Forte, forte l'applauso, signori, che lo sentano anche da Buenos Aires. Soprattutto dei coniugi Gobbi, contribuì in modo significativo alla diffusione del tango in Europa. Ángel Bigiondo scrisse tangos memorabili. Tra questi ricordiamo El Porteñito e La Morocha, ma il più celebre fra tutti fu El Choclo, sicuramente il tango più famoso dopo la comparsita. Le parole del tango El Choclo, raccontava sua sorella Irene, le scrisse Bigiondo pensando a un famoso guapo dell'epoca che aveva i capelli del colore della pannocchia, ma che per questioni di sicurezza personale non nominò esplicitamente. Nel 1947 Enrique Santos Discepolo scrisse le parole definitive così come le conosciamo oggi, la versione più famosa. Un aneddoto racconta che ai tempi della Prima Guerra Mondiale, un musicista tedesco, per onorare un giornalista di Buenos Aires in visita in Germania, suonò al pianoforte le note dell'inno nazionale argentino. Il giornalista riconobbe subito la melodia di El Choclo, che il tedesco pensava fosse l'inno nazionale del paese sudamericano. Nel 1911 arrivò a Buenos Aires il compositore Pietro Mascagni per eseguire al Teatro Coliseo la sua opera Isabeau. Poco dopo, per rendere omaggio all'autore di Cavalleria Rusticana, Bigiondo compose il tango strumentale Don Pietro. Nel 1917 Carlos Gardel e José Razzano, affascinati dalla musica di Bigiondo, decisero di inserire nel loro primo disco un suo tango, Cantare Eterno. Ángel Bigiondo ci ha lasciato non solo composizioni che sono la colonna portante della musica rioplatense, ma veri e propri tanghi immortali che ancora oggi vengono eseguiti in tutto il mondo. Questo forma parte un sacco di video che avevo fatto 10 anni fa e li ho persi tutti con la ritmi, è rimasto solo questo. Con questo signore, il Gigio, la voce non vi suona familiare, Rete 4. Niente, ho fatto un sacco di video fino a Discepolo, ne avevo, questo è uno. E questo personaggio importantissimo che è stato... La cosa che mi affascina è Tornare dietro nel tempo e pensare la incoscienza di questo tipo o tanti altri personaggi, ignaro di che stava entrando nella storia, che quello che stava facendo 100 anni dopo sarebbe diventato, no? Ma sono stati i pionieri, i padri loro. Ui, perché mi apre tutto qua? E niente, non riesco. Ah, così, aspetta. Cos'è questo che vedete qua? No. Questa è l'improvvisazione, meglio della direttiva. Questo è la visione, no? E questo? Qua, Mariposita. Questo è un altro dei grandi personaggi del tango, che è il bandoneon. Il bandoneon è uno strumento europeo, l'avevano inventato per fare le messe, le cose religiose, per non portarsi l'organo dietro, no? Per portare questo organetto piccolino, ma in Germania non ha avuto mai successo come strumento. È sceso a metà 800 in Argentina, non si sa bene, ognuno dice quello che vuole, però è uno strumento che è diventato la voce del tango in Rosario, in Argentina, il bandoneon, mette il gordo troilo. Stiamo andando, è fine 800 con tutti questi personaggi, il gaucho che arriva alla periferia, l'immigrante dell'Europa che arriva, si mischiano tutti, iniziano a suonare, appare Villoldo, viene fuori il bandoneon, i primi anni del 900, Y este es el Pacho Vicente Greco, Garrote. Eso es la cara. La orquesta de Vicente Greco. È importantissimo perché lui inventa il termine, l'orchestra tipica. Orchestra tipica inventata lui. Perché in una serata che vanno a suonare, dice: ragazzi, come vi chiamate voi? Sì, non lo so, l'orchestra tipica del tango. È rimasta. E lo chiamavano Garrote perché aveva, in realtà Garrote era suo fratello più grande, che era un animale. E una volta il Garrote grande era in giro, stavano giocando a carte con suo padre e lui ha capito che a suo padre lo prendevano in giro, per il culo, e si è arrabbiato, e le ha mollato un cartone a uno e gli è rimasto Garrote. Garrote è una mazza da noi, la mazza. E poi quando veniva fuori lui, il fratello di Garrote, gli è rimasto Garrote a lui. Nel tango Garrote è Garrote greco, è lui. Da lì viene il termine Garrote, cioè la mazza, mazza greca. Ha inventato il termine orchestra tipica. Garrote con Canaro, mira Canaro, giovane. Oh, mamma mia. Vicente Greco. Este es el Pacho Maglio, che è il primo, non so, mi parte lo spagnolo con quattro birre qua già. Il Pacho Maglio è il primo che ha inciso nella storia un solo de bandoneon. Inizio del Novecento. E lo chiamavano il Pacho, perché era fuori di testa, era travieso, come se c'era, vivace da bambino. E il papà italiano diceva: ma ti sei pazzo, te sei un pazzo. E i ragazzini non riuscivano a dire le doppie, no? E gli è rimasto Pazzo, Pazzo, Pazzo, il Pacho Maglio. Famoso il Pacho Maglio, è morto nel 34. Guardate le orchestre primitive, una chitarra, un flauto, un violino. Così è iniziato tutto, ragazzi. Tutto quello che facciamo oggi dobbiamo a questa gente. Armenon Vin, un tango famoso del Paccio. Questa è la Calle Corrientes. Calle Corrientes è una via famosissima di Buenos Aires, che adesso è larga, tipo Corso Buenos Aires, ma prima era così, angosta, piccolina, ed era una festa. Guardate qua gli italiani mangiando tranci di pizza, bevendo vino, ragazzi, Buenos Aires, inizio Novecento. La crema qua, tutti. E l'Argentina è stata fatta da questa gente. La famiglia di mia madre è tutta italiana e mio padre è tutta italiana. 100% italiani tutti. Centro di Buenos Aires, sicuramente Calle Corrientes. Mi ricordo una volta ho sentito Rivero che diceva Buenos Aires negli anni 40 era una festa. E quando ho visto questa foto aveva ragione, guardate. Sembra una festa. Che? Pazzesco. Il Paccio. Lasciamo perdere. E qua viene il genio. Chi conosce questa persona? È il Tigre Arolas. È il Tigre del Bandoneon, Eduardo Arolas. Tigre è l'autore del Marne, tango che ballate oggi. Arolas ha una storia tristissima perché un uomo di una sensibilità, era un musico quattro spanne avanti agli altri, perché ha composto cose che balliamo oggi, che sono modernissime. E il tipo torna a casa e trova la sua compagna con suo fratello. Morto. Scappa disperato, se ne va a vivere in Uruguay e in Uruguay mette sotto con la macchina un bambino e lo ammazza. Più disperato ancora se ne va, perché lui era figlio di emigranti francesi, se ne va a Parigi, a Montmartre, e c'è un aneddoto, lui, allora, ti ricordi 15? E la storia ufficiale dice che si ammala di polmonite, che cazzo ne se muore, no? E c'è un'altra storia che dice che si è messo con una tipa di un, come si chiama? Il magnaccio in Francia si dice il, c'è un nome, nessuno lo sa, non mi viene, no, c'è un nome, e c'è una parola, diciamo, e mi sa che lo hanno mandato a massacrare, poi è morto in un ospedale da solo. E niente, una storia pesantissima. Questo è stato uno dei musicisti più importanti del tango, il Tigre Arolas, un genio totale. Mira il tigre, questa è la sua formazione, qua con Lomuto, Francisco Lomuto, e acá è Montmartre. No, impressionante. Vi sto conducendo, Questo personaggio si chiama Roberto Firpo, è stato molto importante nella storia del tango perché è il primo che ha introdotto il pianoforte come strumento fisso. Vabbè, lasciamo perdere perché se no non ce la caviamo più. Roberto Firpo ha iniziato a suonare in Armenonville, in tanti cabaret dove c'era il pianoforte che non si poteva spostare, allora hanno deciso di lasciare il pianoforte lì e con tutti gli strumenti. E così si incorporò il pianoforte al tango. È stato lui il primo, Roberto Firpo. Ci sono degli aneddoti pazzeschi con Gardelli, con cosa. Roberto Firpo. Mamma mia, quanta storia. Mi ha De Caro, i Fresedo. Mi ha dato questa foto. Firpo con De Caro e Fresedo. Dio mio. La orchestra di Firpo. E te Canaro. Canaro che, ti piaccia o meno, ha avuto una traiettoria importantissima nel tango. Il longevo ha composto. È stato presidente di quello che sarebbe la SIAE qua, la SADAIC, l'orchestra di Canaro. E tutto questo accadeva più o meno fino al 17. Questo è un altro personaggio importantissimo, Delfi, Enrique Delfino. Enrique Delfino è italiano, genitori italiani, e a lui lo mandano a studiare, qualcuno dice a Roma e qualcuno dice al Conservatorio di Torino. E il Delfi inizia a studiare, inizia a conoscere Puccini e Verdi, ma fuori di testa. Gli flascia il cervello l'opera italiana e la musica italiana. Quando torna in Argentina, che si diploma, trasferisce nel tango, e il tango Grisetta, mezcla rara de Grisetta e de Mimì, tutti i personaggi dell'opera è sua. Per quello dicono che lui è il creatore del tango romanza. Gardel del tango canzone e lui del tango romanza. Il 17, no? Pensa che ecco Grisetta qua, al piano lui... Che casino. Ahí está. Grisetta, Enrique Delfino. Siamo già nel 17, ne già sta prendendo forma. Eh? Dillo forte. No? Ok. Il Delfi. Succede che poi nel 17 viene fuori questo personaggio che è veramente quello che rivoluziona tutto. Borges ce l'aveva a morte con lui. Eh? Quello importante, quello di destra. Sono rincoglionito lì. Sono paralizzato lì, davanti al maestro. Borges non lo sopportava, Gardel aveva ragione, nel senso che dice che Gardel viene con tutta questa cosa del bel canto europeo e gli toglie al tango questa cosa giocosa che aveva Origero e Cangenghe, no? Ha ragione che lo ha modificato. Però se non c'era Gardel non c'era neanche Troilo, non c'era Pugliese, non c'era il tango degli anni 40. Che una meraviglia, capito? Gardel nel 17 viene fuori che non voleva cantare il tango lui, perché cantava folklore, e gli insistono con un pezzo di... Mi sta mettendo fretta? Facciamo veloce. Con un pezzo di Contursi, canta Mi noce triste in un sainete, e da lì, non è da lì, ma dicono da lì inizia il tango canzone. Gardel è stato fondamentale, ragazzi. Gardel è il personaggio del canto e della musica, perché aveva un fraseggio talmente unico e particolare che i musicisti si ispiravano, Troilo si ispirava al fraseggio di Gardel. Impressionante. Perciò già nel 17 cambia il mondo e questo è uno dei personaggi più importanti. Poi nel 24 c'è un altro evento enorme che è Julio e Francisco De Caro. I fratelli De Caro erano figli di un signore che era un accompagnatore della Scala, un pianista classico, li fa studiare in Buenos Aires la musica, e questi qua quando erano adolescenti gli gira la testa e si mettono a fare il tango, capito? De Caro non si è parlato con il padre prima che il padre morisse, gli ultimi giorni non si sono più parlati perché i figli facevano il tango, capito? E l'apporto di De Caro fu fondamentale, perché il tango si suonava disorganizzatamente e lui, siccome aveva una formazione classica, inizia a scrivere le partiture per ogni strumento, gli arrangiamenti, le cose. Rivoluziona tutto. Pugliese, si chiama l'epoca decariana, no? Pugliese, Gobbi, vengono tutti dallo stile di De Caro, la scuola decariana, sì? Un altro fondamentale personaggio, Julio De Caro. E adesso voglio arrivare a questa cosa qua. Però voglio finire con lui. Vi racconto che negli anni 30 lo hanno cacciato via Irigoyen, Che strano l'Argentina, porca puttana. Un altro golpe, via Irigoyen. E il tango di nuovo giù, lo davano per morto. E nel 36, 37, 38 viene fuori D'Arienzo, pam, pam, pam, con il ritmo, fa riavvivare tutto e il tango di nuovo. Sì? Le prime, quando sentite, qua ballano il tango tutti? Qua ballano il tango tutti? Ragazzi, dai, aiutatemi. Ok. Quando ascoltate Di Sarli, Troilo, Pugliese del 40, che lo sentite ritmico, no? Che strano Pugliese, è perché dopo che era venuto fuori D'Arienzo, le casse discografiche le rompevano le palle a tutti i musicisti che dovevano suonare come lui, allora sono tutti ritmici, no? Dopo un po' di tempo prendono il proprio stile, ma all'inizio c'è Di Sarli che sembra perché li obbligava la casa discografica. Detto questo, che il personaggio è lui, voglio parlare di questo qua, perché di lui non parla nessuno. E chiudo con questo, perché questo forse è la cosa che dovrebbe interessarvi di più. Qualcuno riconosce questa persona? Vedendo la foto. Carlos Esteves Petrolio. Allora, come vedete, vi ho raccontato tutta un'evoluzione musicale che arriva agli anni 40 con gli arrangiatori argentino Galván, il tango già suonava. E i Milonghero erano rimasti al Cinghi Cinghi, al tango Ruggero e Cangenghe. Erano rimasti. E Petrolio, che aveva, non era un tipo, era un tipo di classe media. Petrolio lavorava in banca, andava a vedere il balletto alla Scala, aveva una sensibilità particolare degli altri tamarri tangheri, no? Lui era un pochino più evoluto. E Petrolio dice: ragazzi, guarda che noi siamo rimasti indietro, dovremmo attualizzare il tango, il ballo del tango a quello che stanno suonando, perché noi siamo rimasti. Geniale l'idea, no? E Petrolio si mette con la sua compicola di amici e rivoluziona il ballo. Per quello forse una volta Miguel mi disse, io dico, sta esagerando, è un po' esagerato, dopo un po' di tempo dico, cazzo, aveva ragione Miguel, mi disse, Petrolio fu per il ballo quello che Gardel fu per la musica. E dopo un tempo dico, cacchio, ha ragione, perché Petrolio codifica quello che non c'era prima, che è l'abbraccio, la postura, la collocazione del corpo, e con gli altri amici inventa il ocho, che è la figura più importante che ha il tango argentino, e inventano il giro. Sì? Inventano il giro. L'aneddoto è che Caccio Lavandina, che era un umile operaio, amico di Petrolio, stava tirando su e giù Roldana si chiama in cosa. E non so chi le attraversa un'idea, rimane flashato così, quando finisce il lavoro va, corre da Petrolio e dice, Petrolio, Carlito, mi è venuta un'idea. Dovremmo prendere la corda, no? Dovremmo far girare la donna intorno alla corda, così, ma come? Oh, si inventano il giro. Ma la cosa pazzesca è che il giro c'ha l'incrocio indietro, c'ha un'apertura e l'incrocio avanti, sono tre posizioni fondamentali. E un'altra cosa che inventa Petrolio, che lui con i suoi termini lo chiama il passato, il presente e il futuro del movimento, che è il peso indietro, il peso a metà e il peso avanti, e rivoluziona totalmente il tango, no? Perché il peso a metà si utilizza per girare, il peso avanti si usa per camminare e via dicendo. La notizia che vi sto dando, che evidentemente non sapete chi è, e forse tutta questa chiacchierata per me, e l'obiettivo era parlarvi di Petrolio, che tutta la struttura che voi ballate oggi, il giro, l'occhio, tutto quello che fate, l'ha inventato questo signore qua negli anni 40. ed emozione, mi si chiude la gola, ragazzi. E niente, grazie a lui oggi state parlando quello che state parlando, lui e i suoi amici, no? E concludiamo qua la, perché mi sto perdendo il controllo. Si sta emozionando, fortissimo applauso per il maestro Victor Hugo del Grande. Fortunatamente abbiamo registrato la puntata, perché la quantità di informazioni che ha man mano comunicato ce le potremmo riascoltare, andare a indagare dietro ogni piccola pepita, c'è un grande mistero, una grande scoperta. Pensavo di essere l'unico a partire dal paleozoico per raccontare la storia di petrolio. Questa puntata si chiamava Como se hace un tango, siamo partiti veramente dalla preistoria del tango per arrivare a parlare della quasi attualità, se non dell'attualità, eccetera. Grazie maestro. Vorrei chiudere, non so, ci sono mille storie sul tango, di come è nato, l'abbiamo detto prima, e ho provato a raccontarne una, ma c'è veramente la storia che mi affascina più di tutti. E proviamo a fare un esperimento condiviso tra me e Victor, che è quella del maestro e Margherita. Non so se avete mai letto il romanzo di Bulgakov, e per farla breve, la storia del diavolo che sceglie una volta all'anno una città per andare e portarvi il caos e dal caos creare un nuovo ordine, no? Poi è una bellissima storia d'amore, forse la più bella storia d'amore mai scritta, però la storia del diavolo che un giorno scelse Buenos Aires e vi portò un tedesco col suo organito, uno spagnolo con la sua musica, un francese col suo romanzo e il dramma del teatro, e un italiano con la sua chitarra, o se volete con la sua viola. E non c'è un tango forse più bello per descrivere tutto questo di La Violeta, del maestro Annibal Troilo, che magari durante la serata ce lo potremmo anche ballare, però vorrei fare con Victor una mini lettura di questo testo e traduzione istantanea, se ci riusciamo, per darvi la bellezza di quello che può nascondersi dietro delle parole del tango e magari della musica e le storie dietro al tango che possono rappresentare le nostre storie ancora ad oggi. Sapete bene che la Malasanta, che sarà la milonga tra due minuti, vive di una narrazione fatta di malasantini, cioè di immagini scelte un pochettino perché possano incuriosire al tango, e di parole che in realtà vengono da dei tangos, e insieme raccontare una storia che possa poi accompagnarvi nella vostra scoperta personale del tango. E questa sera, un po' per mettere insieme le due cose, un po' per onorare Victor, so che è un tango che gli piace moltissimo, abbiamo scelto proprio le parole della Violeta, no? Che trovate scritte dietro al malasantino. Però mentre lo spagnolo, ahimè, a quest'ora della sera non è brillantissimo, vedete più tardi, io traduco e tu leggi in spagnolo, no, con la tua voce musicale, vi prego, perché poi la mia voce non è musicale, no? Ma sono vecchio e piccolo questo. Con il codo in la mesa mugriente, la testa appoggiata alla tavola sporca, no, con la fronte, no, e il codo, il gomito, al gomito, chiaro, il codo, no? Sentite questa frase perché è impressionante. Con il codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño e lo sguardo inchiodato en un sogno, piensa el tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. Il Tano, Domingo Polenta lo chiamavano, pensa nel dramma della sua immigrazione. E l'italiano, il Tano sarebbe il diminutivo dell'italiano, il Tano. Y en la sucia cantina che canta la nostalgia del viejo paese. Quindi nella sporca cantina dove canta la nostalgia del vecchio paese. Wow, era ineccepibile questo. Desafina su ronca garganta già curtida de vino Carlón. Affina la sua ronca gola, stona, è il contrario. Stona la sua ronca, ronca, la sua rauca gola, già curtida, già tagliata dal vino andato a male. E cazzo, qua posso spiegare? Il vino Carlón era un tipo di vino rosso molto spesso, ecco perché petrolio lo chiamavano petrolio, perché quello che bevevano sembrava petrolio, capito? El vino Carlón, pucherito de gallina con viejo vino Carlón. El vino Carlón era el rosso, quello pesante. E la Violeta lava, lava, lava, lava, lava. Lava sul campo che lei si sognava. Che in italiano, ecco perché sto facendo. Ah, ora le lettere lava, sono lava, in italiano. Lava, lava sul campo che lei si sognava e che c'era su Gigin. Che era su Gigin, ah, che guardandola stava. Ah, ma chi è che ha tradotto questa cosa? Es la letra de la Violeta que... Él también, dai, él también busca su soñado bien. ¿Vediamo? Lui pure va alla ricerca del suo sogno felice, del suo sognato bene. Sognava la tipa, capito? Del suo amore sognato, del suo sognato bene. E da quel giorno, desde aquel día tan lejano ya, quel giorno passato molto lontano, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, que con la sua carica di illusione usciva come il suono della chitarra, no, come la violeta che la va, la va, che la va, la va, la va. Canzonetta de pago lejano, uy, emozionante, ¿verdad? Canzonetta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano con la perla de algún lagrimón. È difficile questa. La diciamo se, canzonetta del paese lontano che idealizza la sporca taverna e che brilla negli occhi dell'italiano con la perla di un lacrimone. Sì, la prendio quando vino con otros encerrado en la panza de un buje y con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. La traduci questa? E la prese quando venne con altri come lui chiusi nella pancia di un battello e con lei mettendo batuche facendo casino si consola la sua delusione. Fuerte l'applauso per il maestro Vittorio Hugo del Grande che ci ha accompagnato in uno splendido viaggio del tanto. Posso farvi l'ultimo regalo? Dura un minuto. Se non mi date l'ok non lo regalo. Quando dicevo l'importanza del petrolio, ma l'importanza di tutta questa gente prima, adesso vi dico il perché. Perché vi parlavo di questo malandrino che ha scritto Don Juan, dura pochissimo, il più Ernesto dell'Ottocento. Però poi e questo lo ballate oggi, no? Ecco perché l'importanza del cibernetto è l'entrerriano 1887. Horacio Salgán. El Tigre Arolas, el Marne. Dicha sede, Aníbal Troya. El Marne, la orquesta de Armando Pontier. Osvaldo Pugliese. Thank you. Questo è Bisoldo nel 3 o nel 2 cantando con una chitarra, con quella chitarra il cioclo. Sentite sta roba. Quando saremo la letra, il chance, no, per salire il setto, salire che è concerto. Voglio averti mi appello, non certo. Siccome sono i furbi del pianeta, sono troppo avanti. Gli americani hanno 3 polmoni, tu lo sapevi? 3 polmoni, hanno 4. No, sì, non gli americani, sono nati, sono superiori a noi. E allora un giorno fanno una trovata lì con Louis Armstrong, non si fottono il cioclo e fanno un film in America. No, perdono, questo qua. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Su patente. Those devil lips that know so well. Su questa colonna sonora. Fortissimo l'applauso. Fortissimo l'applauso per il maestro Vittor. Grande. Che più tardi ci canterà con la sua viva musicalissima voce alcuni tangos. Adesso date una mano tutti alla Cami, riordiniamo la pista, la liberiamo e al via le danze. Vamos. Thank you. alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay, va! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las que alegre, signos de colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidarán de su dolor la gente, risa y cascabel habrá en sus corazones, el baile empezado lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias, y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto. Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse en el baile. Esta noche en Buenos Aires, papelito de color, aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Encontrarte, pero más el ansia mía. Con qué beso ha de besarte mi emoción, con qué cariño apretaré tu corazón. Corre el tren que va a encontrarte, pero más el ansia mía. Y en la dulce ensoñación de la ilusión, tu amor me viene a acariciar. Qué lento corre el tren, qué ganas de llegar. Las horas van pasando y la ansiedad de ver las cosas de la sed hace vibrar todo mi ser. Qué lento corre el tren, más corre mi ansiedad. ¿Qué cosas me dirás? ¿Qué cosas te diré? ¡Qué lento corre el tren! ¡Qué ganas de llegar! Lento corre el tren, qué ganas de llegar. Escucho un tango argentino en la voz del bandoneón, que canta en su melodía a mi pueblo y su emoción. Así es el tango argentino, sencillito y querendo, que en el vaivén de su danza va ganando el corazón. Tango, tango porteño, frase dulce en el oído, confidente y buen amigo cuando se tiene un dolor. Tango, tango argentino, el abrazo de tu danza va trayendo la esperanza cuando se pena de amor. Buenos Aires, amado, cuando esté lejos de vos, pido que un tango argentino me acompañe con su adiós. Thank you. quisiera siempre hasta que muera. Porque cantando vive ilusionado el ser que alguna vez fuera engañado. Sin ver un fin ingrato en su soñar, cantar quisiera, pues por eso así olvidaré este pesar. Yo cantando olvidaré a un ingrato corazón donde busqué para mi amor un dulce nido. Y cantando he de seguir hasta el fin de mi existir, para apagar esa pasión que iluminó en un momento mi ilusión. Yo cantando de olvidar a un ingrato corazón, para apagar esa pasión que iluminó en un momento mi ilusión. Bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some UEFA. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Al oír los primeros compases del bar, no ha tenido intención de bailar. Si hasta parece que el mundo en su eterno rodar girar el compás de algún vals. Si usted ha soñado en sus brazos poder estrechar a esa rubia que encanta al mirar, juntos, muy juntos, los dos estarán si siguen el ritmo del vals. Soñar, dejarse arrugar, decir al oído palabras tan dulces que invitan a amar. Soñar, siguiendo el compás, cerrando los ojos, muy cerca las bocas, el sueño del bar. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos robe el adiós. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del bar. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos robe el adiós. Soñar, siguiendo el compás, que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. La casa tenía una reja pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Noche iba juntando estrellas dormidas y vi pintar en la aurora sus rojas mejillas. Lento caminar, eterno resplandor, mostraba el sol su inmensidad. Miraba de reojo celosa la luna sobre la cuna de la morena y orgullosa de tantas miradas, llegaba presurosa vistiendo de gala. De misterio azul el rostro se cubrió, donosa comenzó a bailar y aprovechó suspiros para echar en vuelo blanco pañuelo aromado de azahar. Detrás de ti va mi nostalgia y agito en vano la esperanza. Déjame encender el fuego en tu candor y en ese sueño verte arder. Así podré saber. Thank you.

tal como yo soy, porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor. Por una vecina y hablarla sola no pude jamás, pues siempre el padre, la madre o la tía a todas horas le andaban detrás. Y ya en el trance de hablar en familia, pues no podía callar mi pasión. Utilizando una clave sencilla le declaré de este modo mi amor. Españó por Ipitapa, me pepalpa pipitapa, epelco por apasó. Si pi me pequi es perepe, dipigapa me pesipi, sin pi ni pi la pasión. No po me pe de pepe, si pinca pari piñopo, se peló por rua palopo. No po me pe ni pegepe, una pasipitapa, so polipito los dos. Como al fin no le fue indiferente y con la clave también practicó, al poco tiempo la vi que sonriente me contestaba sin vacilación. Que peripidipitopo, cuipidapadipitopo, compo mi pipa papá. Espete pelupus nepes, apas la pasipincopo, epel no puede estar. Epe en la pa fue para escapa, pepe, con poca paripuñeo, no pome pepipidapa, o potro pome pesopo, después no potero dos. Fanera escangallada, la vi esta madrugada salir del cabaret placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, luciendo al compadrear su cuero picoteado. Yo que sé, cuando no aguanto más, al verla así rajé para no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, y llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví en mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Me hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, para pensar. Al fogón, viejita Camila, y en el sillo un cimarrón para que dure largo. Atar aquellas astillas que el fuego se ha apagado, revuelva aquellas paradas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella besó su día pasó, y arranque esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, que puse mi vida, mi daga y mi maneta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña, que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarla. Ahogándome en caña y quiero estar cerca, cerquita de usted. Después, cuando la noche envuelva los bañados y se oiga ya a lo lejos el toque de oración, en que le inicie la Virgen de los Desamparados y a mi pobre guitarra coloquele un crespón. Thank you. tiene tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que enciende al corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí, para no vernos más, total, que más me da. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Sacale viruta al piso hasta romper los zapatos. Esa chaucha, si es que tenés buenas uñas. Thank you. È stato un lungo viaggio, se volete una lunga, lunghissima malasanta. È iniziata come un esperimento tanghero e si sta rivelando veramente una nuova narrazione per questa città e per questa comunità, ed è soprattutto grazie a voi. Quindi fortissimo l'applauso per tutti i malasantissimi, né mali né santissimo, direi. Il sogno di Cami e mio era di riuscire non solo a portare il tango dentro questo posto, ma anche e soprattutto la musica, perché il tango è prima di tutto musica, e ci siamo mano a mano riusciti, invitando un po' di amici, un po' di artisti che stimiamo e che sapevamo transitare per la città di Milano, si sono prestati a questo esperimento ed è stato veramente magico. E non potevamo che chiudere veramente con un amico a cui dobbiamo tantissimo, abbiamo condiviso dei momenti in cui il tango danza soprattutto è sparito ed era rimasto soltanto sulle frequenze di una radio pirata, Radio Tango Macao, e questa persona ha contribuito a portarsi sulle spalle un po' della cultura, a comunicare, a portare avanti un po' della magia del tango. Quindi è con estremo piacere e affetto che invito a salire sul palco, anzi a levantarsi, no, dalla siscia, al maestro Victor Hugo del Grande. Forte l'applauso, signori, vamo. Grazie. Allora, quando c'è il tango di mezzo, le parole balliamo, dai. Patrón, cierre la puerta, no me mire a su guardar. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey, para que los burretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo le quiero dar. Al bazar de los burretes, cuántas veces de burrete me acercaba para ver de allí de afuera, detrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un doble para comprarnos el pan. Hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga un juguete pa' curar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo juguete y con un cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se lo compro, por eso nada menos. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de burrete me acercaba para ver de allí de afuera, detrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga un juguete para jugar. Terminó, ¿eh? No sabrás, nunca sabrás lo que es morir dentro de su ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí, abrazador de mi cielo. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento siempre mía y solo mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te huye en cada instante febril y amante. Quiero en tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantabas, siento arder en mi interior una dorada llama de amor? Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Rota en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertiene el malbón y aquel balcón que descontrola. Yo no sé si fue negro de tus penas o fue rojo de mi sangre, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano, donde yo era montano. Su nostalgia de morir, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, malado que ya no soy, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Perdón, tinta roja en el gris de la sierra, borbotón de mi sangre infeliz, que vertiene el malbón y aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de tus penas o fue rojo de mi pena, mi sangre, porque llegó y se fue tras el carmín fondín lejano, donde lloraba un tano. Su nostalgia de morir, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, malevo que ya no soy. Bajo tu cielo de raso, trasnochar pedazo de mi corazón. Esa. Trenzas, trenzas. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina, caridad y rutina, me encontré a tu corazón en una esquina. Trenza del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenza de ansiedad, sin ti, ¿por qué tendré que amar? Y al fin para ti. Trenza, seda dulce de tu trenza, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenza, nudo atroz de cuero crudo que me ataron a tu nudo. Adiós, ¿a dónde fue tu amor de flor silvestre? A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenza de ansiedad, sin ti, ¿por qué tendré que amar? Y al fin, para ti. Se c'è qualcosa da dire ancora, voce lo dirà se c'è qualcosa da imparare ancora. Ce lo dirà. Poi. Noche llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaba tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia y el mismo loco, loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizás mordiendo un llanto, me date siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia y el mismo loco, loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Separados sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. ¡Qué tanguito, papá! ¡Mamma mía! Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu son. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oí reír. Y cuando se fue, lloró tu son. Duele, no ande goteando tristeza. Duele, que tu rezongo me apena. Vamos, hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no ande goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guarde su ingratitud dentro de tu caja y con su manta azul te hice mortaja. Esta es la historia del castillo de Baraja que levantamos a tu hermoso bandoneón. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, fuelle, no ande goteando tristeza, fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no ande goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso. Y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado. Gris en mis cabellos y divina. Loco, casi muerto y destrozado. Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz. Y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás frente a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado. Todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. ¿Cuántos años han pasado? En mis cabellos y mi vida, y loco, casi muerto y destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que aquel cristal. Fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirada. Sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará frente a Dios más allá. Qué lindo tango este. Última. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como riera vi si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es vivo el amparo de tu risa leve, que como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y loca las fontanas se contarán tu amor. Que me quiera de venas del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará mi puente pero luciérnaga curiosa que será que eres mi consuelo. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, nos traerá fresca la risa, rumor de melodías, nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras me dé las las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi. Oh. Oh. Bene. Io avrei finito, vi ringrazio tanto. La birra fa miracoli. Dai. Grazie di avermi invitato, ragazzi, e niente, per me è un presente perenne, perciò. No devi pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mi beso te aturdí sin importarme que era buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí. De tu grisel me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy querido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel, me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otro beso me aturdí. Mi vida toda fue el engaño. ¿Qué será mi ser de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? Non dimenticarti di me, della tua miseria. Mi dicesti mentre baciavi quel crocifisso, e oggi che mi porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel, neanche ti ricordi di me. Grisel, Grisel, Grisel. Grazie!